Radio 24 Reportage. Resistente agli OGM, Bruxelles e la sicurezza alimentare, di Angelo Miotto. Le maïs OGM empoisonne les animaux qui s'en nourrissent. Due topi, cavie d'esperimento. È partito da lì l'ultimo dibattito e allarme sugli organismi geneticamente modificati, OGM, che vedono da anni favorevoli detrattori scontrarsi sugli effetti che la modifica genetica può avere nel corso degli anni. Lo studio del professor Gilles-Éric Séralini, ricercatore dell'Università di Caen, dimostra che topi nutriti per 2 anni con mais OGM muoiono più giovani e soffrono più spesso di patologie cancerogene. Lo studio, pubblicato dalla rivista internazionale di tossicologia alimentare Food and Chemical Toxicology, ha provocato reazioni anche dentro la Commissione e il Parlamento europeo. Ma cosa prevede la politica europea sul complesso tema degli OGM? Andrea Ferrante, presidente di IAB, l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, fotografa una situazione di sostanziale fallimento, al momento, per quanto riguarda la penetrazione dell'OGM nei paesi degli Stati membri europei. Anche se, bene ricordarlo, spesso le dinamiche della politica europea vanno a scontrarsi con le grandi pressioni che esistono nelle dinamiche con i grandi produttori a livello internazionale oltreoceano, laddove l'OGM è ormai una realtà consolidata. Le famose culture OGM, a parte l'esempio spagnolo dove si è fatto un po' di mais, però sempre con numeri, diciamo, rispetto ai numeri europei ridicoli, stiamo parlando di 80.000 ettari di mais in Spagna, però lì si sono fermati. Ora, rispetto all'agricoltura europea, che è di gran lunga la prima agricoltura mondiale in termini di produzione, è evidente che quel tipo di modello agricolo è stato un fallimento micidiale, diciamo, perché rispetto al fatto che tu c'hai 100 milioni di ettari coltivati fra Stati Uniti, Latina America e parte dell'Asia, non c'hai niente in Europa, è chiaro che, diciamo, quel tipo di modello in Europa non ha attecchito, perché ormai stiamo parlando di qualcosa che è vecchia di 10-15 anni. Cioè, quindi secondo me quel modello non avrà mai un grandissimo successo, proprio perché poi il modello agricolo europeo, sotto questo punto di vista, è molto più simile alla frastagliatissima agricoltura italiana che all'agricoltura del Midwest americana. Perché se noi abbiamo 7 ettari di azienda media, in Europa ce l'hanno 12, ma lì ce l'hanno 150. Torniamo ai topi del professor Séralini. Il ministro dell'agricoltura del governo francese, Stéphane Le Foll, ha spiegato a fine settembre che, a prescindere dall'esito della validazione dello studio SHOC firmato, sarà necessario rivedere i protocolli di autorizzazione dei prodotti geneticamente modificati. Secondo Le Foll, ci sono 2 strade che portano a conclusioni simili: attendere la validazione dello studio da parte delle autorità francesi e successivamente vietare le importazioni di quel mais in tutta Europa. In alternativa, anche se non dovesse essere concessa la validazione, occorre comunque rivedere le autorizzazioni ai cibi OGM. A partir du moment où c'était aussi lourd comme conséquence, il fallait tout de suite, rapidement, prendre les mesures pour savoir si cette étude était validée. A partire da queste conseguenze così pesanti, bisogna sapere subito se questo studio è valido, perché è stato fatto nel silenzio più assoluto prima di essere pubblicato. Dobbiamo essere rapidi e razionali. Ci sono studi che oggi non davano elementi concludenti sugli OGM, mentre questo studio dice delle cose molto precise. Ora, le soluzioni sono 2: interdire l'importazione di questo mais e poi adire le istituzioni europee. Se questo studio non si dovesse dimostrare valido, non cambia nulla sul fatto che il protocollo per la sicurezza alimentare legato a sementi OGM debba essere preso in carico dalle istituzioni europee. Ça sera pas très très long. Faire pas donner de date non plus parce qu'il faut laisser les chercheurs travailler parce que je connais le processus là aussi, pas de pression. <t'-> Se è vero che la legislazione europea è in senso generale contraria agli OGM, un comparto che rientra nei finanziamenti previsti dal programma Orizzonte 2020 è proprio quello della sicurezza alimentare. La legislazione dei singoli Stati membri è quella che ha modo di prevalere rispetto alle regole fissate da Bruxelles. Per questo il ministro francese Le Foll chiede una presa di posizione netta. Paolo De Castro è presidente della Commissione Agricoltura al Parlamento europeo. Ai microfoni di Radio 24 spiega quali dinamiche politiche e di lobby industriali del commercio mondiale premano sul capitolo OGM. L'Europa resiste sicuramente, non lo so se riuscirà a resistere a lungo, visto che il resto del mondo ha fatto una scelta diversa sulle biotecnologie, sia il Nord che il Sud America, la Russia, la Cina, l'Asia, l'Australia. Le biotecnologie si stanno imponendo anche perché le nuove biotecnologie, quelle che chiamiamo le biotecnologie di terza generazione, hanno smesso di creare Frankenstein food, per dirla con uno slogan, cioè oggi si lavora nei modifiche genetiche intraspecie, cioè non si spostano geni da una pianta all'altra ma si lavora all'interno della stessa pianta, e questo può, diciamo, limitare quegli effetti di impatto che a volte anche mediatico si è generato su questo grande tema degli OGM. Ricordiamoci poi che l'Europa importa grandemente i prodotti OGM dal resto del mondo, in particolare la soia. Notoriamente noi siamo deficitari in Europa per quasi il 90% dei nostri fabbisogni di soia, quindi non c'è latte, formaggio, carne che non abbia in qualche modo le vacche o i maiali italiani, europei, francesi, che non abbiano consumato soia transgenica brasiliana, argentina, americana. Quindi c'è anche da prendere atto, insomma, che in qualche modo, direttamente e indirettamente, questo tema ci tocca. Siamo in provincia di Vercelli, si raccoglie il riso, le risaie sono state svuotate dall'acqua, alcune varietà sono coltivate a secco. I genetisti, che non ricorrono alle tecnologie OGM, incrociano varietà di riso per rendere le sementi più resistenti agli agenti atmosferici o ai prodotti chimici che vengono utilizzati per garantire un raccolto pieno. Filippo Akshari, genetista albanese, sta dividendo mazzetti di piante di riso nel centro ricerche di Sapise. È sempre alla ricerca di nuove varietà. Chiediamo a lui cosa ne pensi dell'OGM in agricoltura. Riguarda il futuro, il progresso è andare a ricercare OGM. Cioè, magari quando sono venuto via dall'Albania, il mio sogno era di inserirmi a lavorare anche in questo campo, ma purtroppo qui c'è un ambiente, un clima che è per molti versi strana, ma per quanto riguarda anche dal mio punto di vista un po' arretrata, per cui è contraria all'ingresso dell'OGM. Lei non avrebbe paura che poi la modificazione non si riesce più a riportare indietro? No, l'OGM è una tecnologia molto avanzata, basta controllarlo. Avere la possibilità di inserire quello che io alla cieca faccio durante un incrocio, perché all'incrocio, quando incrociamo due varietà, cerchiamo di intuire quello che posso avere dalla combinazione dell'informazione genetica di due genotipi che vengono incrociati. Ha già creato delle varietà? No. Noi non lavoriamo con l'ingegneria genetica, lavoriamo solo con il metodo dell'incroci, il metodo tradizionale dell'incroci. Val Salmoggia, 40 minuti da Bologna, dove avevamo già incontrato Michele Caravita, ex muratore, oggi agricoltore biologico, fondatore dell'azienda agricola La Sega, che aderisce al collettivo Campi Aperti. Da amante della coltivazione biologica, Caravita ha le idee chiare sull'OGM. Siamo in una delle stanze della casa che ha costruito vicino ai suoi campi. Gli OGM sono una cosa che non ci serve assolutamente. Cioè, io non sono un genetista, non sono un nanotecnologo, un biologo, così, però a fronte di tutta una serie di possibili rischi di questa cosa qui, ci sono solo degli svantaggi a sperimentare in agricoltura questa cosa qui, che potrebbe essere comunque, oltre ai danni che alcuni dicono già che ci sono, hanno testato per chi si alimenta di sta roba, metti anche che hanno tutta una serie di rischi di manipolazione dell'ambiente, di diffusione incontrollata di cose che, e vantaggi per l'agricoltore. Primo, per l'agricoltura, e l'agricoltura, l'economia dell'agricoltura, zero. Cioè, tutti i vantaggi lì stanno a chi li vende e chi li commercializza, i prodotti annessi che ti vendono per le cose. E i consumatori neanche, non è vero che questa roba qui fa scendere il prezzo finale a fronte di maggiori qualità, eccetera. Il discorso la fame del mondo, non ne parliamo, cioè, bisogna mangiare alla gente, ce la faremo noi, quindi... Solo rischi e poco, non c'è nessun vantaggio, secondo me, visibile. Forse nel brevissimo termine, per chi fa un'agricoltura che non bisognerebbe fare. Quindi, boh. Però, nonostante questo, c'è Futuragri, qualche pazzo che hanno fatto la semina clandestina, no? Del mais, l'hai vista quella roba lì? Nell'aiuole di non so che comune, là in Veneto. E questi, ho visto un'intervista a uno di questi che, cioè, parlava metteva sullo stesso piano chi è contro gli OGM oggi, contro chi era contro il pomodoro nel Medioevo, perché diceva queste cose così magiche, queste superstizioni contro i prodotti nuovi, diversi. Però era bravo a parlare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.